così da più, a me mi sembra. Da più tu, eh? Il rovino ha fatto il mondo. Ci vamo giù.